Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: non molti spunti nemmeno oggi arrivano dalle borse, possiamo chiamarle attendiste se vogliamo. Invariata Francoforte, praticamente invariata anche Parigi, più 0,1, Londra invariata, Milano più 0,4% in questo momento. Invariata è anche l'America, per cui calma piatta per ora e ogni tanto anche per fortuna sui mercati. Devo dire che anche i movimenti sono abbastanza tranquilli. Italcementi è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde l'1,3%, UbiBanca l'1%, Mondadori meno 0,80%, Luxottica meno 0,6%, Monte dei Paschi e Finmeccanica perdono lo 0,4%. Bene A2A più 4%, Fondiaria più 2,4%, Impregilo più 2,2%. Il 2% lo guadagna anche Mediaset e Mediobanca, l'Automatica più 1,80, Intesa San Paolo più 1,6, un punto e mezzo il rialzo di ST Microelectronics e delle CIR, Exor più 1,2, Fiat più 1% come il Banco Popolare. È forte l'euro, è quasi a quota 1,51 ed è fortissimo di nuovo l'oro, che ha toccato un nuovo record storico, ormai praticamente li aggiorna di giorno in giorno. Siamo arrivati all'oncia a 1225 dollari, complimenti a chi ha oro in riserva in casa, praticamente 1226,56 poco fa, quindi ha sfondato anche la quota di 1225 dollari l'oncia. Così, il petrolio invece si mantiene su quota 76 dollari al barile, quindi su livelli relativamente alti ma non altissimi, siamo sempre a metà rispetto al record storico di luglio 2008. Questo per quello che riguarda i mercati complessivamente dati. Il tema di apertura riguarderà questo accordo e rapporto annunciato oggi dalla Caritas e dall'ABI, cioè l'Associazione delle Banche Italiane. La Caritas ha fotografato delle famiglie, chiaramente si occupa delle famiglie con reddito più basso, dice che una su tre, il 37% per la precisione, rischia di finire sotto la soglia di povertà l'anno prossimo tra chi ha un reddito basso, come conseguenza della rata del mutuo, quando quindi la rata del mutuo è superiore del 30% al reddito disponibile. E l'ABI ha confermato che entro Natale arriverà la definizione del piano per le famiglie e quindi la moratoria, la sospensione di 12 mesi della rata del mutuo per le famiglie che avranno che saranno in difficoltà, dove è intervenuta una difficoltà sostanzialmente sul lavoro, ma non solo. Ne parleremo proprio in apertura, perché un rapporto obiettivamente che preoccupa, quello delle famiglie già con reddito basso in cui la rata supera del 30% il reddito disponibile. Poi mercati finanziari, poi la Guardia di Finanza, nuove operazioni oggi sulle filiali di banche austriache, ma non saranno le ultime, così annuncia la Guardia di Finanza, e avremo l'ospite chi sta conducendo queste operazioni. Nella seconda ora del programma invece ci occuperemo dell'economia europea, adesso vi daremo anche le notizie in breve, perché oggi è uscito un rapporto di Bruxelles, quindi della Commissione europea. Italia, Francia e Germania guidano la ripresa dell'economia dell'area euro, che per la prima volta dopo 15 mesi di fila e nell'Europa 16 il PIL è tornato a crescere, questo nel terzo trimestre del 2004, e su questo insomma abbiamo anche una buona notizia, perché insomma più 0,4%, non vi mando però il gallo perché aspettiamo su questo, ma insomma 15 mesi di caduta libera, finalmente nel terzo trimestre più 0,4% per l'economia europea. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve. Partiamo dall'economia internazionale. Come sempre, oltre al petrolio e ai dati sui mercati, oggi si segnalano due accordi o annunci a livello di compagniere. Firmato, lo ha annunciato lo stesso presidente di Alitalia, Roberto Colaninno, a margine di un incontro bilaterale organizzato dall'Aspen Institute Italia-Russia, scusatemi, firmato, dicevo, un accordo tra Alitalia e Aeroflot, un accordo che dovrebbe portare a un vero e proprio accordo commerciale e industriale per sviluppare sinergie tra le due compagnie. Sempre in tema di compagnie aeree, American Airlines ha rilanciato su Japan Airlines, ha messo sul piatto quasi 2 miliardi di dollari, 1 miliardo 800 milioni di dollari per acquisire Japan Airlines assieme al Network One World, insieme ai partner del Network One World e al fondo di private equity TPG, per appunto evitare che Japan Airlines sposi l'alleanza con il consorzio rivale, che è quello di Sky Team, e appunto resti in One World. A livello internazionale, il gruppo Peugeot Citroën PSA, secondo produttore europeo di auto quanto a vendite, sta trattando l'acquisto di una quota consistente di Mitsubishi Motors. Stiamo parlando di un 30-35%, quindi prosegue riassetto, riordino, quello che Marchionne profetizzò come il ne resteranno solo 6 a livello mondiale di costruttori. Peugeot appunto sta trattando dal 30 al 50% di Mitsubishi. Mitsubishi Motors è il 6° costruttore automobilistico del Giappone, per cui non è uno dei primi, ma insomma vorrebbe dire per Peugeot mettere un piede importante in tutta l'area asiatica. Ancora invece a livello internazionale, il gruppo attivo nelle telecomunicazioni mass media Vivendi ha venduto il 20% della sua quota nel canale americano NBC, l'ha venduta General Electric per quasi 6 miliardi di dollari, 5 miliardi e 800 milioni. Ancora l'economia americana, il tasso di produttività americana cresce più 8%, ma è inferiore alle attese, si aspettavano un 8,5%, e invece calano le richieste di sussidi alla disoccupazione in America, un dato migliore di ogni attesa. Ci si attendeva 480.000 richieste di sussidi di disoccupazione la settimana scorsa, sono state invece 457.000. Ma intanto il segretario al tesoro americano Timothy Geithner ha dichiarato: non ritireremo a breve le misure di stimolo varate per far ripartire l'economia. Per cui ha detto: attenzione, nonostante i dati siano tutti in miglioramento dell'economia americana, non andremo a ritirare il pacchetto di stimoli. E Geithner si è anche detto sicuro della riconferma di Ben Bernanke alla guida della Federal Reserve, la banca centrale americana. Ancora lo stesso Ben Bernanke ha detto: l'economia a livello americano è in ripresa, ci preoccupa molto però la disoccupazione, occorre stare molto attenti nel valutare le famose exit strategies, ossia le vie d'uscita da questa crisi, per non, diciamo così, strangolarla proprio sul nascere. Tassi invariati in Europa, era ampiamente atteso, oggi riunione della Banca Centrale Europea, nel giorno in cui, ripeto, le campane e il gallo non lo facciamo sentire, perché aspettiamo, è dopo 15 mesi il primo PIL in positivo dell'area euro, aspettiamo di avere una conferma, poi ve le faremo sentire, ma insomma più 0,4% nel terzo trimestre dell'economia europea, il trimestre prima, il secondo del 2009, aveva fatto un meno 0,2%, ancora la Banca Centrale Europea ha alzato le stime nell'area euro a 16 per il 2009, fra un meno 3 e un meno 4%, prima si parlava di un meno 4,2 e meno 5%, per cui erano peggiori le stime sulla chiusura dell'anno. Tassi invariati all'1%, definiti appropriati dal presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. The Governing Council decided to leave the key ECB interest rates unchanged. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, ritenendo il livello attuale appropriato. Le ultime informazioni disponibili confermano gli attesi miglioramenti dell'attività economica nella seconda parte dell'anno, con il PIL che nel terzo trimestre è tornato positivo dopo 15 mesi negativi. Tuttavia, alcuni dei fattori su cui si basa la ripresa sono di natura temporanea. Nel terzo trimestre il PIL è salito dello 0,4% sul trimestre trimestre precedente e la ripresa sta continuando anche negli ultimi tre mesi dell'anno. Per il 2010 prevediamo una crescita a ritmo moderato. Il processo di ripresa sarà probabilmente discontinuo e circondato da un alto livello di incertezza. Le stime di Eurostat indicano per il 2009 una crescita tra meno 3,9% e meno 4,1%, per il 2010 tra lo 0,1% e l'1,5%, mentre nel 2011 sarà lo 0,2% e il 2,2%. Le stime riguardanti il 2010 sono state riviste al rialzo rispetto a quanto indicato a settembre nelle previsioni macroeconomiche della Banca Centrale Europea. With the September 2009 ECB staff macroeconomic projections. Allora, volete sapere dell'oncia? Lo diciamo spesso. Comunque, l'oncia vale 28,3 grammi. L'oncia che si usa però per il commercio dell'oro si chiama oncia troy e vale un po' di più, 31,1 grammi. Questa è utilizzata per dare appunto il valore dell'oro. Ripeto, qui ci giungono segnalazioni di un oro che avrebbe toccato i $1,300 all'oncia. A noi non risulta, però. Può essere, a noi risulta infatti un oro nuovamente record, ma $1,226 l'oncia. Vabbè, andiamo avanti. Il Fondo Monetario Internazionale. Io sono molto tentato di dare un gufo a Sadoun oggi, a Enrico Sadoun, perché, allora, col massimo rispetto, il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale merita il massimo rispetto in Italia, Enrico Sadoun, però se dite che la disoccupazione crescerà ancora di almeno un paio di punti e in modo permanente nei paesi avanzati, lo ha detto stamattina parlando a Trieste al Nobel Colloquia, io non capisco cosa vuol dire in modo permanente. Cioè, vuol dire che ci teniamo due punti in più di disoccupazione per i prossimi anni, finché non moriamo, per i prossimi 10 anni? Ma veramente non capisco, anche perché siamo all'8%, andare al 10% non è un dettaglio, e quindi io spero che Sadoun si sbagli. Buonasera. Questo è il nostro gufo per quello che riguarda le stime fatte da Sadoun e dal Fondo Monetario Internazionale. Vorremmo che appunto ci fosse un po' più di precisione nel dare queste notizie. In modo permanente non capiamo cosa vuole dire. Sadoun ha anche definito la politica fiscale italiana quasi perfetta e dice le risposte della politica fiscale italiana alla crisi mondiale sono state quasi perfette e hanno funzionato. Ultima notizia prima di partire con il nostro approfondimento: il fisco, l'operazione delle guardie di finanza, l'annunciavamo già, sull'entrata, della guardia di finanza e dell'agenzia delle entrate, sui controlli delle filiali di banche austriache. E lo ricorderete, lo scorso 27 ottobre vi fu una prima operazione della Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Entrate su 76 filiali di banche svizzere. La Svizzera si arrabbiò moltissimo, si rischiò lo scontro diplomatico, o meglio, sì, vi fu uno scontro diplomatico, e anche con le filiali di banche territorialmente vicine a San Marino. Continua quindi l'offensiva verso paesi ritenuti fiscalmente un po' paradisiaci. C'è anche l'Austria tra questi, contrariamente a quanto alcuni possono pensare. Vabbè, adesso parliamo delle famiglie con basso reddito, del rischio che vengano cacciate sotto la soglia di povertà, denunciato dalla Caritas per effetto della rata del mutuo. Allora, nel 2010 una famiglia su quattro tra quelle che acquistano la casa sarà a rischio povertà. Questo è l'allarme lanciato oggi dal rapporto dell'Osservatorio regionale sul costo del credito promosso dalla Caritas e dalla Fondazione Responsabilità Etica, ma c'è stato anche un intervento importante dell'ABI, ossia dell'Associazione delle Banche Italiane. Allora, saluto e ringrazio, fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Dicevo, saluto e ringrazio il responsabile dell'Ufficio Solidarietà Sociale della Caritas, curatore dell'indagine, Don Andrea La Regina. Buonasera. Buonasera. E grazie anche al dottor Massimo Roccia, che è direttore centrale dell'ABI, quindi Associazione Bancaria Italiana, per quello che riguarda il rapporto con il mondo del credito. Dottor Massimo Roccia, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Don Andrea, la regina, cerchiamo di capire l'allarme che avete lanciato. Voi dite, nel 2010 il peso del mutuo rischia di portare o di far scivolare una fetta ancora più ampia di persone sotto la soglia di povertà. In che modo e qual è la vostra quantificazione? Certamente la nostra è una proiezione che però si fonda su dei dati, su degli indicatori che abbiamo elaborato nella ricerca, perché diciamo in alcune zone dell'Italia si potrà accadere che si arrivi fino al 37%, quindi una famiglia su tre, dice la nostra ricerca, supererà quella soglia del 30% che è il reddito disponibile per il pagamento di un mutuo. Quindi queste persone che si trovano ad avere un mutuo che non dipende solo dal costo del credito, dipende da tante variabili, si troveranno in difficoltà perché qualsiasi problema familiare, una malattia o una perdita del lavoro, una cassa integrazione, rischia di far sì che queste famiglie scendano al di sotto della soglia della povertà e diventa una soglia abbastanza rischiosa, perché superare il 30% significa non avere un accesso al credito sostenibile. Quindi noi siamo anche grati ad ABI che ha proposto la moratoria sui mutui, e questo è un fatto importante. Nello stesso tempo però diciamo, cerchiamo di aggredire anche le cause che portano a questo, perché noi nei nostri centri di ascolto abbiamo famiglie, volti di famiglie, storie di famiglie che sul territorio vedono impoverirsi gradualmente e spesso anche avendo fatto delle scelte di accesso al credito, quindi della stipula di un mutuo non sostenibile, non commisurato alle proprie possibilità. Quindi dovremmo tentare di fare un discorso più ampio su un tavolo ipotetico dove tutti gli attori possano dare il loro contributo, perché la casa non è solo un investimento, ma la casa è anche diciamo un diritto che bisogna riconoscere, cioè le autorità pubbliche devono fare in modo, attraverso delle politiche sulla casa, fare in modo di renderlo possibile. Vivere a rate, vivere per mutui per molti anni rappresenta una ansia per le famiglie, anche se certamente questa è legata all'acquisizione di un bene durevole come la casa. Allora andiamo con ordine, don la regina, perché chiaramente l'allarme che voi lanciate riguarda il fatto che il 37% delle famiglie, una su tre, si potrebbe trovare a pagare o si troverà a pagare una rata del mutuo che è superiore a un terzo del reddito disponibile. Allora, per quello che riguarda le famiglie che hanno fatto un investimento che adesso non possono permettersi, lì noi dispiace, ma bisogna essere anche prudenti, lo abbiamo detto più volte, è inutile fare il passo più lungo della gamba. È vero che c'era un accesso al credito molto facilitato fino al 2007 e che c'era un invito a consumare a credito al consumo, però insomma uno deve anche mettersi una mano sulla coscienza delle volte e riconoscere che ha sbagliato, al di là del contesto bancario di riferimento, dell'opportunità. Delle volte c'è anche un po' di bramosia nelle famiglie stesse. Detto questo, lei quando dice per noi sono a rischio povertà tutte le famiglie in cui il mutuo sarà più alto, supererà il 30% del reddito disponibile, in realtà a me sembra che dipenda anche dal reddito disponibile, perché se uno guadagna 5.000 euro netti al mese e ha una rata di 2.000 euro, magari con 3.000 euro nella vita ci sta ancora dentro. Se invece ne guadagna 2.000 e ha una rata da 700 euro, le cose iniziano a cambiare. Cioè, famiglie povere, famiglie di giovani che devono crearsi una famiglia e quindi acquistare casa, famiglie di immigrati, cioè noi parliamo di una realtà che è certamente quella con cui noi andremo in contatto. Quindi la parte, diciamo, le fasce della popolazione a minor reddito. Ecco, voi avete anche diffuso dei dati su una mappa vera e propria del rischio per le famiglie appunto di fascia di reddito bassa in cui il mutuo per vari motivi va a superare il 30% del reddito disponibile. Quali sono le regioni messe peggio e quelle invece messe meglio? Quelle messe peggio sono la Liguria al 34,2, Trentino al 33,6, il Veneto al 31,4, la Toscana al 30,7, la Puglia al 30. Cioè queste sono il numero di famiglie, fatto 100 il numero di famiglie. Esatto. Che hanno redditi bassi in cui il mutuo supererà il 30%. Sì, supera la soglia. Quelle meno a rischio sono la Sardegna 14,9, Basilicata e Calabria 14,1, Friuli 18,1 e Piemonte e Valle d'Aosta 18,7. Allora, questo per quello che riguarda la distribuzione. Voi chiedete però anche, se ho ben capito, come Caritas un piano casa, cioè, perché nel senso che l'ABI, adesso la sentiremo, fa uno sforzo e va riconosciuto quando le banche fanno uno sforzo, vedremo che formulazione avrà, ancora non è completamente pronto, ma insomma, dando la possibilità di sospendere il pagamento delle rate, la moratoria sulle rate, però questo è un tampone, diciamo. Sì. Forse bisognerebbe pensare anche a una politica economica per i redditi più bassi, o no? Sì, noi parliamo anche di possibilità di social housing da mettere in atto, l'autocostruzione, forme di sostegno al credito attraverso fondi di garanzia e contributi in conto interessi. Cioè bisogna trovare tutti quegli ammortizzatori, potremmo dire, quei paracadute che aiutano e mettono in condizione le famiglie di fare questo passo in modo sostenibile, in modo responsabile, ma nello stesso tempo non andare in difficoltà nel momento in cui si dovesse diciamo succedere qualcosa. Quindi è chiaro che anche la costruzione di edilizia economica e popolare, la possibilità dell'accesso per le famiglie più meno abbienti, tutto questo gli enti locali, anche non solo quindi il governo nazionale, gli enti locali dovrebbero essere attenti a partire dai loro territori a saper rispondere a queste esigenze, non affidare tutto al mercato. Sì, questa è una cosa che abbiamo già notato e vale non solo per le famiglie con redditi bassi, ma in generale anche per le piccole imprese in difficoltà. Cioè si stanno sviluppando sul territorio tutto un insieme di accordi, penso agli accordi notai, piccole imprese, ad alcuni accordi tra banche e con commercio, cioè accordi tra associazioni di categoria o comunque associazioni che rappresentano alcune categorie dal basso, mentre si sente un po' l'assenza, va detto senza nessuna polemica, ma come dato di fatto, di una politica, di un indirizzo, diciamo, di politica economica complessivo, a parte la social card che comunque ha avuto un'applicazione molto bassa, in questo momento non si capisce se arriveranno sgravi IRPEF, cioè cuneo fiscale, busta pago, o sgravi alle imprese che reinvestono, cioè non si capisce quale sia la linea guida a livello di politica economica governativa, mentre si vedono molti accordi sul territorio tra associazioni di categoria, un po' il fai da te all'italiana. Dottor Roccia, d'accordo? Intanto su questo. Innanzitutto direi una cosa di tipo generale. Sì. L'Italia ha avuto negli anni, forse addirittura nei secoli, una politica di credito alle famiglie molto importante ma anche molto prudente. Questo ha fatto sì che davanti alla crisi le famiglie italiane si trovassero con un livello di debito all'incirca la metà della media dell'Europa e, per darle un'idea, un terzo rispetto agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna. Questo perché le famiglie italiane sono molto operose, sono molto risparmiose e propense al risparmio, stavo appunto dicendo questo, e quindi questo le ha messe al riparo. L'altro motivo è perché l'82% delle famiglie italiane ha già una casa di proprietà e quindi l'argomento riguarda soprattutto le giovani coppie e non riguarda in modo così grave la maggioranza della popolazione. Ciò nonostante, a fronte di casi diciamo estremi o marginali di eventi negativi che colpiscono la vita della famiglia e quindi colpiscono quella che si definisce la sostenibilità finanziaria del mutuo, abbiamo lanciato in ottobre la decisione di attuare un piano famiglie, cioè una moratoria generalizzata nei confronti di tutte quelle famiglie che si trovano davanti a un evento particolarmente negativo, come la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la cessazione di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato ma comunque produttivi di un reddito continuativo nel tempo, la morte o l'insorgenza della non autosufficienza economica del percettore del reddito o la cassa integrazione. Ecco, tutti questi eventi che drammatici che colpiscono la capacità di reddito della famiglia rientrano nella possibilità di chiedere la sospensione di 12 mesi alla banca, e questo consente appunto una importante boccata d'ossigeno per far fronte poi ad una ripresa dei pagamenti quando si ristabiliscono condizioni di sostenibilità. Questo consente soprattutto di non avere macchiato, diciamo così, la storia creditizia della famiglia da un fenomeno di insolvenza. Nella stessa logica, proprio per dare conferma a quello che lei diceva, ci sono stati molti accordi a livello locale. Ricordo il Comune di Napoli per l'accesso ai mutui per l'acquisto degli immobili dismessi dal Comune, la Campania, il Lazio, Viterbo, l'Umbria, il Veneto, l'Abruzzo, il Piemonte, tutti accordi che favoriscono attraverso dei fondi di garanzia o la sostenibilità del debito, quindi con un pagamento della rata per esempio per le prime case, oppure l'accesso al credito nei confronti di soggetti che in normali condizioni di mercato non avrebbero accesso al credito. Ecco, tutto questo proprio per cercare di favorire quella parte marginale del mercato che si trova sfortunatamente in una condizione di non sufficienza economica e che quindi alternativamente sarebbe esclusa. Quindi anche se il piano famiglia arriverà come regalo di Natale, non è ancora pronto nei dettagli, da quello che lei ci sta raccontando, dottor Roccia, avremo il discrimine sarà posto sulla cessazione del rapporto di lavoro, malattia o impedimento improvviso, cassa integrazione, cessazione anche di un rapporto di lavoro non necessariamente lavoratore dipendente, quindi, ma non tanto sul livello della rata o il livello del reddito quanto sul fatto che sia intervenuto un caso straordinario che va a penalizzare il reddito stesso, ho capito bene? Esattamente. Cioè non sarà la proporzione tra quanto io pago di rata rispetto al mio reddito, di rata sul mutuo, a definire un discrimine. Esattamente, il discrimine sarà determinato soltanto da un importo massimo del mutuo, perché crediamo che sia giusto privilegiare persone che, avendo una condizione precaria, avranno anche un mutuo di un importo, diciamo così, di una fascia abbastanza bassa, mentre non ci sembra necessario mettere un parametro, come si dice, di rata reddito, perché questo non necessariamente poi alla fine individua le situazioni di vero disagio. Il disagio sta quando si perde il lavoro, quando si perde una persona dentro la famiglia o quando si va in cassa integrazione. A fronte di questo disagio il piano consentirà di sospendere per 12 mesi le rate, riprendendo poi a pagare con un slittamento nel tempo delle rate che determinerà un piccolo allungamento della durata del mutuo. Sì, questo è abbastanza chiaro come cioè, non è che le rate vengono sospese e poi non si pagano più, ti si allunga di un anno il mutuo. Ancora però qualche minuto di pazienza perché c'è il meteo e la pubblicità, poi vorrei capire in realtà qual è anche la fotografia più complessiva che viene scattata dalla Caritas. Risponderemo anche a molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Devo dire in generale ci sono messaggi che testimoniano una grossa difficoltà a pagare, ad arrivare a fine mese pagando il mutuo, e altri che dicono ma sì, ma poi questa gente ha voluto prendere tutto a credito, l'auto, lo stereo, gli abbonamenti, i telefonini, di cosa si lamenta? Sì, insomma. C'è anche, è stato chi non ha saputo ben gestire più da cicala che da formica i risparmi, ma c'è chi in realtà si è solo ritrovato addosso il danno della crisi economica. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare l'accordo Caritas-ABI, appunto luce anche della moratoria, poi sui mutui, poi arriveremo alle borse, più 0,2% la chiusura di Milano. Dicevo degli sms al 349-238-6666. Non so, secondo me la guerra tra poveri andrebbe evitata, nel senso che alcuni dicono ma insomma gli sta bene se hanno speso più di quello che potevano, se hanno tenuto un tenore di vita che non potevano permettersi, sta bene se poi non riescono a pagare le rate. Sì, insomma, direi che uno deve anche imparare da alcuni errori, ma è inutile godere perché qualcuno ha speso i soldi per comprarsi il televisore o l'abbonamento a Sky o telefonini vari. Insomma, va bene, insomma, quelli sapranno come comportarsi la prossima volta. Altri ci scrivono invece che hanno avuto redditi, soprattutto se lavoratori autonomi o con partita IVA, che si sono dimezzati. Non so, mutuo da 700 euro o meno, mutuo da 400 euro con reddito da 2000 euro, adesso il reddito è sceso a 1000 euro al mese. Questi sono casi molto pesanti. Io non vorrei appunto andare tra Guelfi e Ghibellini a dire va tutto bene madama la Marchesa oppure va tutto male, siamo tutti poveri. Cerchiamo anche di mantenere un po' di equilibrio senza cadere negli slogan che poi vogliono dire così approcci politici a temi invece economici, che sapete che non vanno bene in questo programma. Allora, vorrei capire però, anche qui vorrei molta serietà anche dalla Caritas, Don Andrea e la Regina, al di là del dramma dei singoli casi che sono drammatici, cioè delle persone che si rivolgono a voi nei centri d'ascolto e poi nei centri di assistenza, lei ci può dire che c'è stato un aumento significativo di queste persone, fermo restando il dramma di ogni singolo caso, oppure no? Certamente bisogna partire da alcuni fenomeni già presenti, cioè per esempio il fenomeno dell'usura in alcune regioni, non solo in alcune, il fenomeno del sovraindebitamento grave, no, che è molto presente. E poi ai nostri centri di ascolto certamente aumentano le persone che sono in difficoltà con la rata del mutuo da pagare. Queste sono situazioni che noi viviamo tutti i giorni. Cioè, questa è le cifre, certamente questa è una proiezione ed ha le caratteristiche di una proiezione, però dai nostri centri di ascolto si nota, anche perché le Caritas lo sottolineano, una difficoltà da parte delle famiglie, anche quelle non, fino ad ora non soggette a povertà, che hanno la difficoltà nel pagamento del pagamento della rata mutua. Questo si può vedere se si incrociano, gli esperti l'hanno fatto, non l'abbiamo sottolineato, si incrociano tutti i procedimenti per la vendita delle case che sono state per il pagamento del mutuo, o se le situazioni legate a diciamo a situazioni difficili che vengono in evidenza nei nostri centri di ascolto. Molto spesso noi ci troviamo di fronte a molte famiglie in situazioni di sovraindebitamento e quindi di difficoltà data la crisi. Anche. Mi dica solo una cosa, una battuta, perché siamo in conclusione, ma è vero o è una leggenda metropolitana che vengono nei vostri centri anche persone che prima appartenevano alla fascia media, medio-alta, manager, gente che lavorava nel mondo della finanza? Cioè, a me puzza un po' di leggenda metropolitana, però vorrei sapere se... No, direi di no. Sa perché? Perché nei nostri centri d'ascolto, come avete visto, del rapporto povertà, si fanno poi le statistiche. Mm-hmm. Quindi ci sono famiglie che vengono ai nostri centri d'ascolto che non erano, al momento non erano nostri, tra virgolette, utenti. Quindi questo capita, soprattutto lo vediamo anche presso la Speranza, che abbiamo fatto in accordo con la CEI, l'ho promosso con ASI, sì, e noi stiamo collaborando. Si vede adesso alcuni utenti che certamente qualche anno fa, prima della crisi, non sarebbero avvicinati a un centro di ascolto per ricevere un accesso al credito come quello del prezzo della Speranza. Beh, speriamo che le cose migliorino comunque nel 2010. Importante l'iniziativa, appunto, oggi presentata anche da Caritas e assieme all'ABI, moratoria sui mutui. Il dottor Roccia ha spiegato bene quale sarà il criterio con cui si applicherà. Grazie quindi da un lato al direttore centrale dell'ABI Massimo Roccia. Grazie a voi. E dall'altro al responsabile ufficio solidarietà sociale della Caritas, don Andrea La Regina. Grazie, saluto al dottor Roccia. Grazie. Sì, continuano sullo stesso tenore i messaggi. Io ripeto, è inutile andare a dire va tutto bene o va tutto male, cerchiamo di discernere. Poi se uno vuole vedere, se invece vuole tenersi prosciutto ideologico sugli occhi, è un altro discorso. La borsa, la vita, più 0,2% Milano, invariata Parigi, meno 0,2% Francoforte, meno 0,2% anche Londra, meno 0,1% anche l'America. Non vi posso dare conferme dell'oro a 1.300 perché non ne abbiamo, per cui l'oro ha fatto nuovi record ma non a quel livello. L'euro invece è vicinissimo a quota 1.51, giornata di borsa oggi abbastanza tranquilla con A2A più 3,8%, Impregilo più 2,5%, Fondiaria più 2,2%, Mediobanca più 2%, Steam Microelectronics più 1,7%, Exor più 1,6%, Mediaset più 1,5%, come Intesa San Paolo l'Ottomatica. Bene anche Campari, più 1,3%, le CIR, più 1,3%, il Banco Popolare, più 0,90%. Male invece Italcementi, meno 1,8%, Ubibank, meno 1,2%, come Mondadori, Finmeccanica, meno 1%, Luxottica, meno 0,6%, e come Snam, Rete Gas, e Telecom, che perde mezzo punto percentuale, come Monte dei Paschi e le Pirelli. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare la borsa. Allora, io capisco che le giornate siano di tempo grigio, un poco sole, però insomma certe polemiche non le capisco. Perché scrivere? È inutile che tu dica che questo programma si occupa di economia. A me così sembrava, che noi ci occupassimo di economia e di finanze, evidentemente abbiamo fatto altro, così come qualcun altro contesta la definizione di giornata tranquilla in borsa. Beh, una chiusura più 0,1 e meno 0,2 negli altri mercati non mi sembra una chiusura di quelle da ricordare negli annali dei mercati azionari. Comunque, va bene, andiamo avanti così. A2A più 3,8%, il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sulle 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E perché? Guarda, motivi particolari non ce ne sono, tra l'altro il settore delle utilities oggi in tutta Europa è rimasto abbastanza stabile. Poco prima della chiusura delle contrattazioni, peraltro proprio su A2A, è uscita anche una notizia che si riapre la bagarre sulla privatizzazione di oltre il 17% della ex AEM di Milano, che appunto è stata realizzata con due delibere comunali che sono state contestate dai soci di minoranza per la golden share concessa al comune di Milano, però evidentemente la notizia non, sebbene sfavorevole alla società, in quanto la Corte di Cassazione comunque nemmeno la notizia sfavorevole muove il titolo, non sappiamo perché, e vabbè, più 3,8% comunque a 2A. In pregiro c'è qualche notizia almeno lì? Anche in questo caso non ci sono notizie particolari, si tratta più che altro di movimenti tecnici che hanno appunto sospinto in alto le azioni. Fondiera Sai, c'è notizia? No. Mediobanca, più 2%, c'è notizia? Guarda, oggi c'è stata soprattutto una giornata dove si sono visti numerosi movimenti tecnici e numerosi cambi di direzione da parte di vari titoli. Peraltro anche la borsa nella mattinata andava meglio, poi ha rallentato il passo durante la seduta. Molti titoli bancari hanno addirittura virato al ribasso proprio sul finire delle contrattazioni. Mediobanca invece ha continuato ad andare bene, ma non perché sia stata spinta dal report o da notizie particolari. Se è avanti così, Leonora, ti chiederò cosa fai per il ponte di Sant'Ambrogio, almeno lì avremo notizie, perché qua non vedo notizie sui titoli, non che tu le possa chiaramente inventare e creare. ST Microelectronics più 1,7, forse qui c'è notizia? Sì, qui c'è finalmente una notizia. Infatti la società ha beneficiato del fatto che la joint venture che ha siglato con Ericsson ha annunciato nuovi tagli di posti di lavoro, circa 600, oltre 1200 già annunciati. Purtroppo queste notizie vengono sempre recepite bene dal mercato, in quanto si vede una riduzione di costi, una maggiore efficienza della società, e anche in questo caso i titoli effettivamente sono saliti. Ancora sui titoli, abbiamo visto tra l'altro Mediaset muoversi abbastanza dopo le parole del presidente Confalonieri un interesse per un'azienda spagnola. Fiat si è mossa non tantissimo, più 0,80%, qui c'è la vicenda però Peugeot Citroën, cioè l'annuncio di stare trattando per il 30-50% di Mitsubishi Motors, ha mosso un po' il settore. E sul fronte opposito Alcementi meno 1,80%, Ubibank meno 1,2%, Mondadori meno 1,2%, Finmeccanica meno 1%, Luxottica meno 0,6%, come Snam, Retegas, mezzo punto percentuale appunto del calo di Telecom. Eleonora, per evitare uno stilicidio, dimmi tu dove c'è notizia. No, come hai detto tu, oggi si sono mossi pochi titoli, alcuni titoli appunto si sono mossi sull'onda di notizie. Oggi c'è stata molta attenzione comunque anche su Snam, che ha finito in ribasso dello 0,58%. I titoli sono partiti in calo in quanto l'autorità dell'energia elettrica e del gas ha definito i criteri per determinare le tariffe e sono stati giudicati appunto un po' deludenti dal mercato, per questo già questa mattina i titoli andavano male. Poi oggi nel pomeriggio i manager della società hanno aggiornato il piano industriale dell'azienda, le azioni avevano virato a rialzo, erano arrivate a guadagnare circa mezzo punto percentuale, ma poi sul finale appunto sono tornate a perdere terreno. Allora, i migliori e i peggiori in assoluto. Per quello che riguarda i peggiori, Siemens meno 5,2%. E poi poco altro, Ratti meno 4,2%, Vivendi meno 3,80%, i migliori titoli molto sottili, Tecnimont più 6,9%. Qualche novità sul titolo, perché era stato oggetto di numerosi saliscendi? No, anche in questo caso non ci sono notizie particolari. Allora, Renault più 5,4%, Cell Therapeutics più 5,2%. In questo momento, volete un aggiornamento dell'America, ve lo diamo, invariata sempre l'America, invariata di meno 0,05, non è cosa. Nasdaq più 0,3%, euro a quota 1,50,86. Grazie, Leonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. c'è notizia, non c'è notizia, non è che le possiamo inventare. Notizia c'è invece sul fronte Eni, annunciato oggi da Paolo Scaroni, amministratore delegato del gruppo Eni, l'accordo con EDF, il numero uno in Francia nel settore energia, Electricité de France, per l'ingresso nel consorzio South Stream. Ascoltiamo Paolo Scaroni al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Abbiamo firmato un accordo di principio, perché mancano ancora i dettagli, per favorire l'entrata di EDF nel progetto South Stream. Ora, noi abbiamo espresso l'opinione che vediamo con favore e con soddisfazione l'entrata di un partner così importante come EDF in questo progetto. Naturalmente dovremo negoziare le condizioni, e le condizioni sono innanzitutto l'ammontare della partecipazione. Poi voi, come forse sapete, attaccata alla partecipazione ci sono quantitativi di gas russo che vengono poi commercializzati, quindi questo è un secondo tema importante. Poi c'è anche il valore della partecipazione, perché noi abbiamo tutti investito tempo e denaro fino adesso. Sono tutti temi che tratteremo nelle prossime settimane. Dopo il GR ci occupiamo invece dell'operazione della Guardia di Finanza contro le filiali in Italia di banche austriache, un'altra operazione su banche straniere presenti in Italia e non è l'ultima, e poi del dato buono, questo sì, dell'economia europea: per la prima volta dopo 15 mesi torna a crescere il PIL. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Adesso ci occupiamo, come promesso, dell'indagine condotta congiuntamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, e poi delle previsioni, anzi del dato sulla crescita economica europea diffuso oggi dall'Unione Europea. Per la prima volta dopo 15 mesi l'Europa ha il segno più quanto andamento economico. Allora, i controlli della Guardia di Finanza di nuovo nel mirino degli ispettori della Guardia di Finanza e di quelle delle Agenzie delle Entrate, le filiali di banche estere in Italia. Eh sì, perché lo scorso 27 ottobre ci fu una prima operazione congiunta Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate in 76 filiali di banche svizzere in Italia e poi altre banche con sedi territorialmente vicine alla Repubblica di San Marino. Molta irritazione sia da parte del Titano che da parte del governo elvetico. Oggi è toccata all'Austria. Allora, attenzione, perché l'Austria, alcuni ci scrivono al 349-238-6666, l'Austria per alcuni osservatori viene considerata come un parziale paradiso fiscale, comunque con non paradiso fiscale come certe isole caraibiche, ci mancherebbe, ma con una legislazione abbastanza tollerante. Vorrei capire se è per questo che la Guardia di Finanza si è concentrata sulle filiali di banche austriache in Italia. E lo facciamo con il capo ufficio tutela entrata del Comando Generale della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Screpanti. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, l'Austria perché? Beh, come lei ha ricordato, questo piano di controlli punta sostanzialmente a verificare il grado di adempimento delle banche e degli intermediari finanziari rispetto all'obbligo di comunicare all'archivio dei rapporti finanziari i dati attinenti ai rapporti bancari, appunto finanziari, accesi dalla clientela. Questo è importante perché tramite questo archivio si riescono a fare le indagini bancarie e finanziarie, che sono lo strumento fondamentale per la lotta all'evasione fiscale, nel cui contesto oggi il tema principale è il contrasto all'evasione fiscale internazionale, ai paradisi fiscali e a quei paesi che hanno una legislazione più favorevole rispetto all'Italia, soprattutto per quanto riguarda la riservatezza riservata alle operazioni bancarie. A quest'ultima categoria si collega l'intervento di oggi, che è orientato a filiali in Italia, quindi parliamo di soggetti italiani ovviamente, filiali in Italia di banche austriache e filiali e banche italiane di emanazione o affiliate con istituti bancari austriaci. I nomi di queste banche? Guardi, i nomi di queste banche non li posso fare, ma a dire il vero non li ho neanche sotto mano, ma comunque sono posso dire che sono concentrate principalmente nella zona del Triveneto e in Lombardia, sono 37 filiali e appunto oggi sono stati interessati da questo piano di controllo. Colonnello, nei limiti di quello che ci può dichiarare, però che cosa esattamente, ancora in maniera più concreta, siete andati a verificare? Sì, guardi, è molto semplice. Dalla documentazione interna della banca siamo andati a riscontrare i rapporti di conto corrente, di deposito, di risparmio, qualsiasi genere di rapporto finanziario acceso dai clienti di queste filiali in un determinato periodo. Sulla base appunto della documentazione interna delle banche si prendono questi dati, si portano a Roma ovviamente con tutte le adeguate cautele, le verbalizzazioni di rito, e i tecnici dell'Agenzia delle Entrate, che gestiscono l'archivio dei rapporti finanziari, controllano se ci sono state tutte le comunicazioni puntuali di questi rapporti all'archivio dei rapporti finanziari, che è un patrimonio informativo molto vasto, atteso che censisce ad oggi circa oltre 950 milioni di rapporti, più ci sono tutte quelle operazioni che vengono effettuate una tantum, ma anche al di fuori di questi rapporti continuativi. Domanda che arriva anche da molti ascoltatori al 349-238-6666, ma a questo punto non varrebbe la pena estenderlo a tutte le banche, anche quelle italiane? Cioè, voglio dire, io capisco la parte svizzera, lì c'era anche un motivo un po' di fare pressione, lei non lo può dire, me lo dico io, per l'operazione rientro dei capitali con lo scudo fiscale, ma se ci estendiamo a banche austriache o banche italiane che hanno rapporti con banche austriache, a questo punto facciamolo per tutte, per anche per le banche italiane, no? Ma intanto questo piano verosimilmente continuerà. Sono soggetti selezionati in base ad una preventiva analisi di rischio, quindi non è proprio un'azione di controllo indiscriminata. Ci sono dei segnali, degli indicatori nei dati che sono presenti in questo archivio dei rapporti, che suggeriscono l'opportunità di fare un approfondimento in loco, che inducono ad orientare l'attenzione su una banca piuttosto che un'altra. È chiaro poi che c'è una certa assonanza con questa grande attenzione che c'è a livello mondiale in Italia sui paradisi fiscali o sui paesi che appunto hanno delle legislazioni più favorevoli, perché il tema centrale appunto della lotta all'evasione fiscale in questi tempi appunto sono appunto i capitali che sono stati evasi e nascosti all'estero. Colonnello, io ci provo perché è mio obbligo, non so se mi darà una risposta. Voi andate avanti, perché ho ben capito anche il direttore accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, ha detto prepariamo ulteriori interventi. Su quali soggetti? Beh, sicuramente sta andando avanti quella che ho detto prima, l'analisi di rischio. Si sta verificando se ci sono altri soggetti che potrebbero essere attenzionati con questi controlli. È chiaro che non posso esplicitare. Mi può dire quali? Prego? Mi può dire quali? Ovviamente no. Ci ho provato, comunque cosa, non era immaginabile la risposta, ci mancherebbe che mettiate in allarme i soggetti che andrete. Preciso che appunto che stiamo operando sul piano dell'analisi di rischio, certo. Quindi non è nulla detto, non sapremo nemmeno noi ora esattamente come orientare eventuali ulteriori controlli. No, la ringrazio per la disponibilità, buon lavoro, in bocca al lupo al capo ufficio tutela entrata del Comando Generale della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Screpanti. Buona serata. C'è Ci abbiamo provato, lo dico anche a chi sta scrivendo, era immaginabile, dai, che non sarebbero certo venuti a dire a noi in diretta nazionale quali i prossimi istituti bancari che avrebbero controllato, adesso va bene tutto. Chiedere era un obbligo, ma la risposta era abbastanza scontata, lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Dopo le informazioni sul traffico, invece, Banca Centrale Europea che ha lasciato i tassi europei invariati all'1%, decisione ampiamente attesa. Ma soprattutto la buona notizia che dopo 15 mesi è tornata a crescere l'economia dell'area euro e dell'Europa a 16. With regard to price developments, as expected, per ciò che riguarda il fronte dei prezzi, in linea con le attese, l'inflazione è tornata in territorio positivo dopo 5 mesi di dati negativi. Eurostat ha indicato a novembre un tasso di inflazione allo 0,6%, dallo 0,1% di ottobre. Ci attendiamo un'inflazione in ulteriore salita nel breve termine, soprattutto a causa dei fattori energetici e alimentari. Guardando più avanti, l'inflazione dovrebbe restare moderata e in linea con il nostro obiettivo di mantenere sotto o vicina il 2%. Le previsioni Eurostat prevedono un'inflazione allo 0,3% nel 2009, tra lo 0,9% e l'1,7% nel 2010 e tra lo 0,8% e il 2% nel 2011. Rispetto alle previsioni di settembre, le stime per il 2010 sono rimaste sostanzialmente invariate. Così il Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet oggi nell'annunciare tassi invariati all'1%, avete sentito le stime sull'inflazione nel 2010 tra lo 0,9% e l'1,7% per quello che riguarda l'inflazione dell'area euro. Daniel Gross, Presidente dell'Istituto del Centro per gli Studi sulle Politiche Europee di Bruxelles, buonasera. Buonasera. Professore, allora mi sembra che la buona notizia, senza ombra di dubbio oggi, sia da un lato il primo PIL positivo in Europa dopo 15 mesi, terzo trimestre più 0,4%, e il fatto, per quello che ci riguarda, che le principali economie europee che stanno guidando la ripresa sono la Germania più 0,7%, la Francia più 0,3% e anche l'Italia più 0,6%. Se lo aspettava? No, ma si deve sempre tenere conto che questo è un dato trimestrale, per cui un trimestre l'Italia va un po' meglio, un altro un po' peggio, per cui bisogna vedere piuttosto la tendenza. E la tendenza, secondo me, non è molto soddisfacente, perché buona parte della crescita è dovuta alle scorte, per cui non si tratta ancora di una ripresa durevole. Ma di scorte che si erano esaurite, che sono state, no, in qualche modo ricreate. Oggi tra l'altro il Presidente della Banca Centrale Europea Trichet ha anche detto: stiamo guardando la situazione greca con molta molta attenzione, ha detto, data la gravità della situazione mi aspetto che vengano prese le giuste decisioni da parte del governo greco, mentre ha gettato un po' di acqua sul fuoco per la vicenda di Dubai, ha detto è inutile sovrastimarla. È la Grecia in questo momento il paese che potrebbe, e speriamo di no, far cambiare quello che sembra un lento, forse un po' debole, ma deciso percorso di crescita economica in Europa? La Grecia per sé non potrebbe fare grandi danni alla crescita in Europa, perché è una parte molto molto contenuta dell'economia della zona euro. Sarebbe piuttosto l'impatto di difficoltà finanziarie in Grecia sul sistema finanziario europeo. Ed è questo che preoccupa la Banca Centrale Europea, come molti osservatori. Ce la faranno i greci a rifinanziarsi il loro debito? Ce la faranno a mettere la loro finanza pubblica sotto controllo? Questa è veramente la grande domanda. Altro tema che spesso trattiamo, cioè le politiche di intervento. Allora, io non vorrei sempre essere polemico con l'Europa, però se c'è un grande assente di questi mesi è proprio, al di là dei mesi della crisi in cui bisognava tenere botta sul fronte delle banche, sull'assetto bancario europeo, lì sì ci furono iniziative anche europee, ma da quando le banche sono state messe in sicurezza, le borse hanno ripreso a crescere, l'Europa è scomparsa come soggetto, diciamo, di coordinamento. Ogni paese di fatto sta aiutando le sue imprese come può e come vuole, Germania in un modo, Francia in un altro, l'Italia molto poco perché abbiamo questo debito altissimo. Ma se non ricordo male, non c'era un progetto di fare e di rendere le opere infrastrutturali europee calcolarle fuori dal debito dei singoli paesi, cioè far ripartire l'economia con interventi, opere pubbliche, infrastrutture anche non fisiche ma telematiche, da pagare diciamo a livello europeo? Infatti queste idee ci sono e c'erano anche prima, ma per il momento non lo si può mettere in atto. Sono due ragioni: uno è che l'Europa non ha il bilancio, non ha il budget che si merita, e il secondo è anche le grandi infrastrutture sono una buona idea, ma ci vorranno 5-10 anni per metterle in atto. Ma più che altro quello che manca è la volontà politica di fare qualcosa insieme. Per il momento prevale quel ognuno fa da sé, che lei ha detto prima, ed è questo veramente il grande problema che impedisce all'Europa di essere un soggetto attivo e di non stare lì solamente a guardare. Mi scusi, ma se la forza di un matrimonio si vede nei momenti di difficoltà, la forza di un'unione come quella europea non si dovrebbe vedere proprio adesso? Appunto, questa è la grande delusione di molti. Avremmo l'infrastruttura istituzionale per fare delle cose insieme, ma per questo ci vuole un leader dinamico e ci vuole la volontà politica a livello dei Stati membri, e manca in tutti i due casi. C'è comunque un'area in cui la Commissione e l'Europa fa un lavoro molto importante, e questo si sottovaluta spesso. La Commissione sta guardando molto da vicino tutti i piani di salvataggio delle banche, cioè le grandi banche che hanno ricevuto degli aiuti in Belgio, in Francia, in Inghilterra, in Germania, e fa sì che queste banche devono prendere delle misure molto importanti per ridimensionare il loro bilancio e diventare competitivi. E su questo diciamo invece l'attenzione c'è, quindi più un'attenzione da controllo che non da intervento. In una battuta, lei non si immagina però che nel 2010 possa esserci un'iniziativa europea di carattere appunto economico forte per far ripartire l'economia, non al tasso dello 0,9 o 1%, che ci mettiamo 5 anni a tornare ai livelli del 2008, se no. Purtroppo non si vede niente di genere in vista. Vabbè, meglio il realismo che l'ottimismo di maniera. Grazie al presidente del Center for European Policy Studies di Bruxelles, Daniel Gross. Buonasera a voi. Ultima notizia, visto che siamo in chiusura di puntata, come va l'America? È sempre invariata, meno 0,04%, il Nasdaq più 0,3%, l'euro 1,51, l'oro a record. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con l'ultima puntata della settimana di Focus Economia.